estate calda, anzi caldissima in prospettiva per l'euro, con un'incognita: che cosa farà l'America se per caso dovesse esserci un avvitamento della valuta europea e un mancato accordo fra i paesi parte dell'eurozona? Beh, la risposta è in due tempi. Nel breve periodo sicuramente non è pensabile che l'amministrazione Obama, con elezioni difficili a novembre per la conferma alla Casa Bianca, con un'economia in rallentamento, possa tollerare che l'euro imploda, portando con sé conseguenze drammatiche sull'economia non soltanto europea ma globale. Del resto, alcuni segni di un indebolimento dell'economia globale li vediamo già dalla Cina all'India, al Brasile, agli stessi Stati Uniti d'America. Nel medio termine, il discorso è diverso, ma sicuramente da qui alla fine dell'anno, con le elezioni americane in gioco, non è pensabile che Washington non intervenga in aiuto dell'euro nel momento in cui la situazione dovesse peggiorare. Mario Platero, GR24, Il Sole 24 Ore, New York.